E allora torniamo in diretta. Ciao, ci senti? Sì. Ciao, allora siamo su Radio Onda Rossa e abbiamo al telefono un rappresentante della comunità senegalese di Firenze. Ci senti? Sì. Ciao. Senti, ti chiediamo di raccontarci, se puoi, come è andata la giornata. Noi ovviamente abbiamo dato la notizia, per cui volevamo sapere, insomma, poi dopo che cosa è successo. Voi avete fatto un corteo. Sì, sono Matar, sono il responsabile della comunità senegalese di Pisa e vicepresidente della comunità, senegalese di Toscana. Allora, questo fatto purtroppo non è una cosa da disegnare oggi come tale. Solo che l'unica cosa che possiamo dire è che adesso siamo fuori di noi, non siamo più nei noi stessi. Dunque diventa molto difficile spiegare il caduto. L'unica cosa però che sappiamo è che non vogliamo sentire dire che lui è un pazzo. Certo. Per noi è un assassino, per noi è una persona che camminava con un'arma, vuol dire che aveva già intenzione di uccidere. Certo. Magari, non lo so, è capitato che ha ucciso un senegalese, però l'unica cosa che ci dà dubbio è perché nei due posti diversi ha ammazzato solo i senegalesi. E questo è un segnale, chiaramente. Ecco, è un mercato molto chiaro. Sì, è un mercato pieno di gente, lì ha sparato tre senegalesi, poi si è scappato diversi centinaia di metri, dove vicino alla stazione non ha sparato nessun altro che altri due ragazzi senegalesi. Sì. Dunque, questo a me mi lascia molto molto perplesso, mi lascio molto con i dubbi. Dunque questo assassino, questo matto, perché mirava soltanto ai questi senegalesi? O perché razzista? Se no, o perché l'hanno mandato? Se no, o cosa che non va? E questo toccherà la giustizia a dircelo. Dunque c'è un punto integrativo. La comunità senegalese comunque oggi è qui riunito e giovedì faremo la nostra conferenza stampa, sabato organizzeremo la manifestazione nazionale dove ci vogliamo vedere i nostri rappresentanti del governo senegalese e anche i nostri rappresentanti del governo locale italiano. Questo venuto a Firenze sabato. Firenze. Venuto Enrico Rossi, che sarebbe presidente della regione di Toscana, ha detto che è con noi, dunque sicuramente lo vedremo sabato. Il sindaco ci ha dato il suo l'ok, il prefetto lo stesso, perché ci hanno accolto, dato la loro disponibilità per dire che condividano i nostri dolori con noi e cercheranno di andare fino in fondo. E questo la vedremo, perché questa cosa qui non deve mai più accadere, non solo sulla comunità senegalese, ma anche sugli italiani. Ma siamo esseri umani. Qualsiasi immigrato che viene qui, venuto con una valigia, ma non è una valigia da tenere a mano, ma una valigia di ricchezza umana. Noi sappiamo cosa dice la Costituzione italiana, anche se non siamo italiani, anche se non siamo capaci di parlare bene italiano come vogliamo, perché l'italiano non è facile. Certo. Però vogliamo vivere insieme a esseri umani, non insieme alle bestie. No, ma nemmeno le bestie non fanno così. È gravissimo quello che è successo. Voi oggi comunque appunto avete fatto una manifestazione e intorno le persone, diciamo, che avete incontrato anche per strada, certo, che reazione hanno avuto? Cosa vi stanno dicendo? Ascoltami, qui ci sta forse più bianchi che neri, ok? Dunque questa solidarietà già ci ha un pochino dato un pochino di calma, un pochino di possibilità per riflettere, va bene? Però veramente io non so come descrivere una cosa del genere, perché non lo so dire. In questo momento non sono me stesso, non capisco nemmeno di quello che sto dicendo che cos'è. Dunque magari in tempo, se possiamo risentirci, avremo più informazioni più giusti e sapremo anche come mai questo è accaduto. Senti, forse puoi anche aiutarci, ecco, come ultima cosa, a dare i nomi dei tre uccisi oggi, perché non vengono riportati. Non sono tre, sono quattro. Sono quattro. Allora, uno si chiama Amdi Genghe. Sì. L'altro si chiama Sambu Modu. Sì. L'altro si chiama Jop Mor, e l'altro purtroppo non mi ricordo il nome. E con là c'è anche un altro all'ospedale che è in fin di vita. Dunque sarebbe il quinto. Ti abbiamo chiesto questo perché ci sembrava importante dare un nome, un'identità a queste persone. Purtroppo si sa tutto della persona che le ha assassinate, e invece ci piacerebbe raccontare le storie anche di questi uomini che sono stati assassinati oggi. Pensiamo che sia un gesto in loro memoria, per questo te l'abbiamo chiesto. Certo, sicuramente, anche magari, non lo so, perché questa piazza ora non si capisce più nulla, fra magari, non lo so, 2-3 minuti la riguardo, perché avevo tutti quanti i loro nomi, ma non ero riuscito a memorizzare tutti quanti. Certo. Però anche fra 2 minuti posso riprenderlo e dire ciò che mi chiedi. Va bene, niente, noi appunto immaginiamo che è molto difficile intervenire in un momento del genere. Senz'altro nei prossimi giorni, anche nelle prossime ore, ci sentiamo nuovamente e parleremo anche di questa manifestazione che avete indetto, lo ricordiamo, sabato, e insomma in questi giorni senz'altro ci sarà occasione, un po' tutte e tutti con calma, di commentare e raccontare quanto è successo. Intanto ti ringraziamo molto e vi abbracciamo a tutti. Grazie. Ciao. Ciao.